dozzine di chilometri, il cielo un passo, le mani sudate. L'Italia ci scorreva dolcemente sotto i piedi, ai lati della strada. Questione di significato da attribuire alla parola libertà, che non significa non curarsi degli altri, ma anzi donarli incondizionatamente tutto a noi stessi. Stringe ancora i denti, ancora un poco di strada e ti potrai riposare assieme a tutte le promesse fatte che non potevamo in nessun modo mantenere. Ho fame, ho sete di razionalità, di dare un posto alle cose senza l'ombra del rimorso, del passato o del futuro. Ormai non c'è più niente, non c'è dolore, il cielo è un po' più blu. La strada qui davanti conduce nel profondo verso il sud. Gli occhi riarsi, il sole era una sfera di polvere a picco sul deserto bruciato della mia evoluzione. Oggi ti chiamavo da una via Cavour di una qualche città di Marte. Più grande di te non ci sarà mai niente, dopo sarà tutta un'altra poesia. Oggi che si festeggiano i funerali come gli zingari, e giorno dopo giorno io e te ci stiamo perdendo. E ormai non c'è più niente, non c'è dolore, il vento è un po' più blu. La strada sotto al sole conduce nel profondo verso il sole. Saresti stata sempre, che anche nei posti più desolati avrei saputo portarmi dietro una parte di te. Guardale ora queste belle parole, che in fin dei conti sono come grano maturo, pronte per essere colte, ma troppo vaste per non riuscirle davvero ad amare. Oggi al tempio degli dei mi hanno offerto dei doni, Minerva, il cinico, l'anarchia e il denaro, mi hanno promesso il meglio della loro felicità. Francamente non sapevo cosa scegliere, ed è stato meglio tornarsene a nord in cerca di qualcuno con cui parlare. Ormai non c'è più niente, non c'è dolore, il cielo è un po' più blu. Qui davanti conduce nel profondo verso il sud.